Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siamo a mercoledì 24 maggio 2023 e siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Città Fujiko Live Club è la trasmissione che ogni mercoledì vi propone due ore di musica dal vivo, quasi tutti i mercoledì, poi fra qualche istante vi spiegherò perché, e fino alle 12.25 appunto musica dal vivo di ogni genere e di ogni epoca. Dicevo che intanto voglio scusarmi per la fine traumatica, direi, di mercoledì scorso. La trasmissione è stata tagliata di una mezz'oretta per problemi di meteo, per problemi che penso conosciate tutti. Da qui a casa mia ci sono due fiumi da attraversare e stavano chiudendo i ponti per attraversare questi due fiumi e quindi non avrei potuto raggiungere casa mia e ho dovuto tagliare di netto e di brutto la trasmissione. Me ne scuso, speriamo che non succeda più, non per la mia trasmissione ma per quello che è successo in altre parti della Romagna, in altre parti dell'Emilia. E comunque, Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità e oggi una novità particolare per quel che riguarda la mia trasmissione, perché mi allargo, come dicono a Roma, e invado un campo che effettivamente non è il mio, ma che delle volte bazzico, il campo della musica jazz. Infatti il titolare dell'album di oggi è un grande pianista jazz, si chiama Brad Meldau. Spero che la pronuncia sia esatta, ma non ci giurerei, che ha sempre fatto nei suoi concerti delle covers di brani rock, non ultimi Radiohead, ma stavolta ha dedicato un intero album ai Beatles. L'album si chiama Your Mother Should Know, Brad Meldau Plays the Beatles. Sono 10 canzoni dei Beatles più una sorpresa, del quale parleremo più tardi, che sono state stravolte effettivamente da Brad Meldau in piano solo, a parte diciamo il motivo principale della canzone dei Beatles, poi dopo parte con improvvisazioni veramente notevoli. Iniziamo subito, prima naturalmente per chi non conoscesse Brad Meldau, è un pianista americano che però adesso vive in Olanda, dove è felicemente sposato con una cantante olandese, e lui ha cominciato giovanissimo a suonare in giro, stava ancora andando a scuola, a suonare durante le vacanze estive e anche non estive, ed è diventato molto molto bravo. Ha suonato un po' con tutti, come praticamente capita a molti jazzisti, e come capita a molti jazzisti non solo. Ha avuto negli anni 90 grossi problemi di droga, che però ha risolto, pare felicemente, già nel 1998. Ha suonato a lungo con un altro grande del jazz che si chiama Joshua Redman e poi si è messo in proprio con un trio, ma non disdegna nemmeno appunto le uscite soliste, come in questo caso. Lo ripeto, si chiama Your Mother Should Know, Brad Meldau Plays the Beatles. È stato registrato a Parigi alla Philharmonie de Paris spero anche in questo caso che la pronuncia sia accettabile, il 19 e 20 settembre del 2020. Ci andiamo ad ascoltare un brano dei Beatles che non è molto conosciuto, l'ho scelto apposta proprio per questo. Il brano si chiama Maxwell Silverhammer, è un brano che apparteneva originariamente a Abbey Road, lui invece l'interprete si chiama Brad Mehldau. Il martello argentato di Maxwell, Maxwell's Silver Hammer, apriva questa, questa piccola rassegna di covers di brani dei Beatles, da cui ho preso, grazie a questo album appunto, Your Mother Should Know, Brad Mehldau Plays the Beatles, ho preso spunto per questa prima parte della trasmissione per ascoltarci brani dei Beatles interpretati da altri, anche perché per quel che riguarda i Beatles dal vivo veramente non c'è assolutamente niente a parte qualcosa della prima epoca con registrazioni impossibili. Comunque andiamo subito ad iniziare con una band che viene dal Galles, una grande, a me piace tantissimo perlomeno. Iniziarono come trio e poi diventarono un quartetto con due chitarre, basso e batteria, poi durante i tour si fanno aiutare anche da un tastierista. Si chiamano Stereophonics, hanno fatto un ottimo album dal vivo oramai una ventina d'anni fa, che si chiama Live from Dakota, e sarebbe ora che ne facessero un altro. Intanto accontentiamoci di questo singolo, loro hanno fatto una caterva di singoli con brani live inclusi, e qui abbiamo Step on My Old Size Shoes come brano di punta e tre brani a seguire, di cui uno dal vivo, che è quello che ci andiamo ad ascoltare, una cover appunto dei Beatles, un brano a Revolver del 1966, si chiama John I'm Only Sleeping, e a dare una mano ai ragazzi arriva anche Noel Gallagher, famosissimo, non c'è bisogno di dire che è una metà degli Oasis, e però loro sono Stereophonics. We'll be right back. È andato di fatto, e non sono certo il primo a dirlo, che gli Oasis sono stati pesantemente influenzati dai Beatles, ed è un altro dato di fatto incontrovertibile che questa I'm the Walrus sia sempre stata nel loro repertorio e nei loro concerti. In questa occasione erano Nebworth, in un concerto che ha fatto storia per quel che riguarda gli Oasis e la musica in Gran Bretagna, non so quante centinaia di migliaia di persone in due concerti, credo 300.000, ma non sono sicuro. Era il sabato 10 agosto e domenica 11 agosto del 1996, e gli Oasis appunto erano all'apice della propria carriera, suonarono questa I'm the Walrus in conclusione del loro set, che è stato registrato non benissimo ma poi è stato pubblicato qualche anno dopo. È un eccellente chitarrista, l'abbiamo visto un paio di volte nel corso della scorsa settimana insieme come membro della E Street Band. Lui si chiama Nils Lofgren, ma ha suonato anche insieme a Neil Young e insieme a tanti altri, e ha una propria carriera solista e ogni tanto pubblica qualche album diverso, ne ha fatti dal vivo, tipo questo Archive Alive, che contiene una cover dei Beatles che si chiama Anytime, che è tratta da un album del 1964 che si chiama Hard Day's Night. Lui è Mr. Nils Lofgren, il pezzo si chiama Anytime at All. Got one more, and then we're gonna see you tonight. All right? Thank you. Anche lui l'abbiamo visto un paio di volte nei giorni scorsi come membro della E Street Band. Sto parlando di Stefano Lento, detto anche Steven Van Zandt, detto anche Silvio Dante, detto anche Little Steven, metteteci tutto quello che volete. Nel 2017 fece un mini show al Cavern Club di Liverpool e naturalmente non ha potuto esimersi dal fare una serie di covers dei Beatles, anzi sono tutte covers dei Beatles, tra cui questa All You Need Is Love che ci siamo ascoltati. Era un singolo che uscì nel luglio del 1967, una delle ultime cose fatte dai Beatles, e riproposta appunto da colui che era chiamato nei primi anni della sua carriera Miami, Stevie Van Zandt. Era riproposta appunto il 14 novembre del 2017. Un grande gruppo che purtroppo è misconosciuto ai giorni nostri, ma che ha fatto una serie di tour, una serie di show veramente incredibili. Venivano da San Francisco, vengono da San Francisco perché sono ancora vivi e vegeti, anche se hanno subito cambi di formazione a ripetizione. E loro si chiamano Tubes e hanno fatto un album che si chiama What Do You Want From Live, registrato al Hammersmith Odeon di Londra. E visto che erano a Londra, anche loro non potevano esimersi dal fare una cover dei Beatles, tipo I Saw Her Standing There. Prima voglio dire un'altra cosa, anzi due, se devo dire, essere sincero. Come potete ben immaginare, le covers dei Beatles, cioè i brani dei Beatles fatti da altri artisti, sono migliaia, non sto scherzando, migliaia. Per cui, per questa trasmissione, ne ho avuto abbastanza di due lettere. La I, quella che dice I am, per dire, e la A. Figurarsi tutto il resto, ma avrò tempo per farvi ascoltare anche tutte le altre lettere. La seconda cosa che volevo dire, a costo di inimicarmi i Beatlesiani convinti, è che per quel che mi riguarda il 99% dei casi le covers sono migliori degli originali. I Saw Her Standing There, Tubes. E questi agitatissimi erano i londinesi Symposium, una band abbastanza sconosciuta che ha goduto qualche momento di notorietà sulla fine degli anni 90, infatti poi sono sciolti nel 2000 ma si sono riformati lo scorso anno, però non credo che stiano avendo grossi risultati. Naturalmente Hard Day's Night, il brano che ci siamo ascoltati, era la title track del terzo album dei Beatles che uscì nel luglio del 1964. Sempre più agitati questi Symposium. Comunque andiamo avanti, andiamo con due pezzi da Super 90. Il primo si chiama Mr. Frank Zappa e non ha bisogno di presentazioni, voglio sperare. Dirò solamente che questo Mother 1971 è un box set di 8 CD fantastico che comprende tre concerti, due americani e uno al Rainbow Theatre di Londra, quello famosissimo in cui un pazzo spinse Zappa giù dal palco e Zappa si fece anche male, fra parentesi, e però questo concerto è stato immortalato e inserito insieme agli altri due in questo ottuplo, non so se si dica così, comunque cofanetto che è veramente spettacolare e consigliatissimo a tutti gli amanti non solo di Zappa ma della buona musica. Il loro concerto londinese naturalmente si concluse con un omaggio ai Beatles con la ripresa di un singolo del novembre del 1963 che si chiama I Want to Hold Your Hand, Frank Zappa. Thank you and good night. Good night! Oh no! Yeah! time. Ce ne sarebbero ancora tante di covers dei Beatles, cioè di brani dei Beatles fatti da altri artisti con canzoni che cominciano con I o A, che era il criterio di scelta di quest'oggi. Ma avremo tempo per altre volte, spero, per ascoltarcele. Intanto questi erano i Pearl Jam, naturalmente l'avrete riconosciuti al volo, che nella figura di Eddie Vedder, che come me è un fanatico del baseball, in occasione della vittoria di Chicago Cubs, una delle due squadre di baseball di Chicago che vinsero nel 2016 il campionato americano, che poi è una specie di campionato mondiale, dopo decine, sto parlando di quasi un secolo di anni che non lo vincevano, e Eddie Vedder organizzò un paio di concerti al Wrigley Field, che è lo stadio di baseball dove giocano i Cubs, e quindi la cosa fu registrata. Purtroppo è un solo album, e la cosa mi dispiace molto, solo album che si conclude proprio con questa cover che si chiama I've Got a Feeling, che certamente avrete riconosciuto e che è tratta da Let It Be, un album seminale, come dicono quelli che ne sanno a pacchi, uscito nel febbraio del 1968. Nei giorni scorsi, esattamente lunedì e martedì, si sono svolti, visto che sono due, a Londra, due concerti in memoria e in onore di Jeff Beck, chitarrista favoloso che ci ha lasciato all'inizio di quest'anno. Il concerto è stato organizzato da Eric Clapton e dalla moglie di Jeff Beck, dalla vedova di Jeff Beck. E Jeff Beck fa parte del trio, naturalmente, che tutti conoscono, che fece parte degli Yardbirds: Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page. Quindi scusate se è poco. È sempre stato rinomato come grandissimo chitarrista. Io sono molto d'accordo, anche se forse a volte è un po' troppo pirotecnico. E aveva un grosso problema: lui non cantava, nel senso che evidentemente era stonato come me, e molti dei pezzi che ha fatto sono strumentali. È anche un pezzo con cui vinse un sacco di premi a suo tempo come pezzo strumentale dell'anno, era strumentale ed era un brano dei Beatles che ci andiamo subito ad ascoltare, e conclude questa piccola, purtroppo, rassegna di brani dei Beatles con canzoni che iniziavano con I, tipo I Am, oppure con A. Naturalmente proseguiremo con le lettere alla prima occasione, e adesso intanto andiamo a concludere con questa People Get Ready, Jeff Beck. Seconda parte di Città Fujiko Live Club di oggi 24 maggio 2023 e seconda parte che è iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi che si chiama Your Mother Should Know, Brad Mehldau plays the Beatles, naturalmente Brad Mehldau è il titolare di questo album in cui appunto dice di suonare i Beatles, ma poi alla fine c'è la sorpresa della quale vi parlavo in apertura di trasmissione, che è questo brano di David Bowie che avrete certamente riconosciuto, che si chiama Life on Mars. Il tutto registrato dal buon Brad in Francia, a Parigi, e la Philharmonie de Paris per la precisione, il 19 e 20 settembre del 2020. Come sempre però nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel passare degli anni, e come sempre sono tantissime ancora una volta le registrazioni effettuate il 24 maggio e il criterio di scelta rimane sempre quello di un brano per ogni decade. E siccome ci sono tantissime cose, partiamo sparatissimi alla grandissima, oserei dire, Mr. Jimi Hendrix per la precisione, l'album che uscì postumo chiaramente nel 1982, si chiama The Jimi Hendrix Concerts e comprende registrazioni effettuate qua e là, soprattutto per la California. Il brano che ci andiamo ad ascoltare infatti è stato registrato alla Sports Arena di San Diego il 24 maggio del 1969. Da notare una piccola cosa, almeno nella mia edizione, che è quella originale di quegli anni, alla batteria siede un tale Mitch Miller, ma in realtà si tratta di Mitch Mitchell, il batterista titolare della Jimi Hendrix Experience. L'andiamo ad ascoltare, il brano si chiama I Don't Live Today. We'll be right back. Nothing but existence. Attacca subito al brano seguente. A noi interessava questa I Don't Live Today, che è stata registrata in quel di San Diego il 24 maggio del 1969, dopo parte Red House, che è stata registrata, anche se attaccata, è stata registrata in un'altra occasione, e I Don't Live Today, il brano che ci siamo ascoltati da questo doppio vinile che si chiama The Jimi Hendrix Concerts. Nel 1972 i Grateful Dead fecero uno dei rarissimi tour europei, credo che ne abbiano fatti due, al massimo tre, e naturalmente, come sempre succede per quel che riguarda i Grateful Dead, i concerti sono stati tutti registrati. Uscì più o meno all'epoca una documentazione sonora di quel tour che si chiamava Europe 72. Poi nel corso degli anni sono uscite tantissime cose relative a quel tour europeo, che poi in realtà si sviluppava solamente, se ricordo bene, fra Parigi, Copenaghen e Londra. E niente, una delle prime cose che uscì, sto parlando nel 2002, per cui non è proprio attaccato all'evento, comunque nel 2002 uscì un triplo album che si chiamava Stepping Out with the Grateful Dead England 72. In seguito poi tutti i concerti di quel tour sarebbero stati pubblicati a sé stanti. Qui invece abbiamo un insieme di registrazioni effettuate a Londra, a Newcastle e al Birkenshaw Festival. Per quel che riguarda Londra, due location, la Wembley Empire Pool e invece l'Iseum Theatre, che è quella che ci interessa perché è stato registrato il 24 maggio appunto del 1972. Tutto questo triplo album si apre appunto con una registrazione effettuata in questo teatro londinese sullo Strand, appunto l'Iseum, il 24 maggio del 1972. Si chiama Cold Rain and Snow, Grateful Dead. Well, we've been trying to get here for a long, long time, and we eventually, finally made it. Please welcome the Grateful Dead. The Grateful Dead. combing back her yellow hair. And I'm going where those children. Onestamente non so se ci sia qualcuno al mondo che sappia esattamente quante sono le centinaia di pubblicazioni live dei Grateful Dead, perché è un labirinto intricabile, secondo me inestricabile, anzi sarebbe meglio dire. E ci sono, come sapete, i Dick Speaks, che purtroppo si sono fermati dopo la morte di Lick Latvala, che era l'archivista dei Grateful Dead, ma il suo posto è stato preso da David Lemieux, che con le sue pubblicazioni è arrivato in questi giorni al numero 48. E David Lemieux è anche il compilatore di questa raccolta che ci siamo ascoltati adesso, che si chiama Stepping Out with the Grateful Dead England 72, un assemblaggio di brani registrati appunto nel corso del tour inglese di quell'anno. E il brano che ci siamo ascoltati si chiama Cold Rain and Snow, il brano di apertura di questo triplo dischetto, che poi è stato surclassato, diciamo così, dall'edizione integrale di tutti i concerti che sono stati pubblicati nel corso del tour europeo del 72 e poi da tantissime altre pubblicazioni. Comunque all'epoca questo era il top delle registrazioni effettuate in Gran Bretagna dal gruppo di Jerry Garcia. A Santa Monica, che come si suol dire è una ridente località in quel di Los Angeles, esiste un negozio di strumenti musicali, prevalentemente chitarre, che si chiama McCabe's Guitar Shop. È un negozio molto famoso presso i musicisti americani che vi si recano per acquistare oppure per far aggiustare i propri strumenti. Questo McCabe's Guitar Shop nel retro un locale nel quale era consentito ai musicisti di provare le chitarre. Era uno di quei locali americani, di quei negozi americani nel quale c'era grande, magari a tutta parete, la scritta vietato fare smoke on the water, perché tutti i chitarristi, soprattutto quelli alle prime armi, quando provano una chitarra fanno smoke on the water. È una cosa che quasi quasi sapevo fare anch'io. Comunque, queste prove, diciamo così, a un certo punto sono diventate pubbliche, il retro di questo locale si è ampliato e molti musicisti, oltre a provare le chitarre, facevano mini show in quell'occasione. Una di queste band è quella dei grandi R.E.M. Conoscerete tutti la band, diciamo, del frontman Michael Stipe, ma anche gli altri non scherzavano assolutamente. R.E.M. nel corso della loro carriera, purtroppo terminata abbastanza presto, anche se bisogna rendere merito a loro di avere terminato questa carriera quando hanno capito di ripetersi, non avere più niente da dire nel campo della musica rock. E fra l'altro c'è qualche voce che pare che per beneficenza possano fare qualche concerto qua e là sparso nei prossimi tempi, ma questo sono solamente chiacchiere. Quel che importa a noi è che loro hanno fatto tantissimi singoli con brani dal vivo e brani in studio. Questo è uno di quelli, il brano di punta è il famosissimo The One I Love, mentre quello che interessa a noi è un brano che è stato registrato al McCabe's Guitar Shop di Santa Monica il 24 maggio del 1987, si chiama Disturbance at the Heron House, loro sono R.A.M. Thanks. They're going wild, the call came in early morning, pre-dawning. Bottle of blues, the chaos out of control. The number and the monkeys and the monkeys, the followers of chaos out of control. Call came in to Party Central, meeting of the green and simple. Try to tell us something we don't know. They're meeting at the monument. The call came in the monument. Liberty and honor under the honor roll. They gathered up the cages and courageous, the followers of chaos out of control. The call came in to Party Central, meeting of the green. Simple. Try to tell us something we don't know. Liberty and honor under the honor roll. The gathering of grunts and greens, of cogs and grunts and hirelings, a meeting of a mean idea to hold. The call came in to Party Central, meeting of the green. Simple. Try to tell us something we don't know. We don't know. We don't know. We don't know. Il 24 maggio del 1994, in concerto al Marquee Club di Amburgo in Germania, era di scena un quartetto che proveniva da Palm Desert in California e che è unanimemente considerato l'inventore, fra virgolette naturalmente, dello stoner rock. Loro si chiamavano Caius, sono stati attivi dall'87 1987 al 1995 e inventarono, pare appunto, questo stoner rock, che è un misto tutto, come sempre accade, fra metal, rock psichedelico, rock acido e un sacco di distorsioni fra chitarre e bassi veramente incredibili. Si sciolsero, come dicevano, nel 1995 e dopo aver fatto 4 album, e ognuno di loro formò un'altra band, della quale, senza tema di smentita, la più famosa è quella di Queens of the Stone Age, fondata da George Holm, quali fra l'altro è uscito un album proprio in questi giorni. Quello che ci siamo ascoltati è una raccolta uscita postuma che si chiama Muchas Gracias, che contiene 4 canzoni dal vivo registrate appunto ad Amburgo in Germania. Una di queste è quella che ci siamo ascoltati, si chiama Gardenia, loro invece si chiamavano Caius. Vengono invece da Leeds, sono un po' più calmi quelli che ci andremo ad ascoltare adesso, che sono i Kaiser Chiefs. Sono insieme dal 1997, hanno un grande successo in Gran Bretagna e quello che ci andremo ad ascoltare è un dischetto che è allegato a un'edizione particolare del loro terzo album, che si chiama Off With Their Heads, che è stato pubblicato nell'ottobre del 2008. Una bella confezione a librettino con 2 CD, il secondo dei quali è stato registrato all'Elland Road Stadium di Leeds appunto il 24 maggio del 2008. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama Half the Truth, loro sono Kaiser Chiefs. Io non voglio mentirti, dirò mezza verità, e questo è il succo di questa Hot the Truth dei Kaiser Chiefs, come dicevo, registrato all'Elland Road Stadium di Leeds e compreso in questa edizione particolare del loro terzo album, che si chiama Off With Their Heads, che comprende il secondo dischetto, quattro pezzi dal vivo, anzi sono solamente quattro pezzi dal vivo, praticamente una ventina di minuti, non in tutto, ma tutto molto interessante da parte dei Kaiser Chiefs. We want you to really have a good time, join them. A concludere questa Recording Today di oggi, Revuna Miss, Miss Florence, insieme ai suoi Machines, anzi Machine singolare, hanno pubblicato anche loro diversi album, alcuni dei quali, soprattutto i primi, pubblicati in varie versioni. Quella che ho tra le mani è la versione australiana del secondo album, che si chiama Ceremonials. In questa versione, che si chiama Australian Limited Edition, nel secondo dischetto sono comprese diverse registrazioni dal vivo, delle quali parecchie, quattro, registrate appunto a Sydney in Australia, per promuovere appunto il tour australiano. Le canzoni sono state registrate a Sydney, e come vi ho già detto, il 24 maggio del 2012, e andiamo col classico di Florence and the Machine, si chiama Dog's Days Are Over. The dark days are over. Florence and the Machine, registrato in quel di Sydney, Australia. Dog Days Are Over, il brano che ci siamo ascoltati, uno dei suoi più conosciuti, e è contenuto in questa Australian Limited Edition del secondo album, Ceremonials, che Florence and the Machine hanno fatto uscire, o chi per loro, hanno fatto uscire in diversi formati, in diverse versioni. Rimane il tempo per proporvi di nuovo la novità che vi ho proposto quest'oggi, Florence and the Machine, con questa registrazione del 24 maggio del 2012, concludevano Recorded Today. Dicevo, mi rimane il tempo per farvi ascoltare la novità che vi ho proposto quest'oggi, ne sono molto felice perché è una cosa un po' anomala per quel che mi riguarda. Brad Mehldau, grande pianista jazz, ha pubblicato questo Your Mother Should Know. Brad Mehldau plays the Beatles, 10 covers dei Beatles più una di David Bowie che ci siamo ascoltati in apertura di seconda parte, per questo pianista in piano solo, veramente notevole. Intanto vi ricordo due cose: la prima che mercoledì prossimo non sarò in trasmissione, e la seconda è che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, 2 ore di musica dal vivo il mercoledì dalle 10.30 alle 12.25. Sempre musica di tutti i generi, di tutte le epoche, e spero sempre di buona qualità. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento fra 15 giorni, vi lascio in compagnia di Brad Mehldau e questo brano dei Beatles che si chiama For No One.